Cierrer. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Sai che ho notato che tra la sigla e l'inizio del programma potrei anche andare fuori a avere un caffè. Ho tutto il tempo che voglio. Ma comunque, ben ritrovati. C'è un vento pauroso, almeno dalle nostre parti, ma credo un po' tutta la Sicilia è interessata da questo vento. Poi non si sa se sia vento di scirocco, maestro, non sono riuscito a capirlo, perché non fa freddo, anzi al contrario, stamattina quando sono andato a correre faceva caldo, tanto caldo. And now, your favorite DJ. Eccomi, Robin Antoni con voi anche per oggi, insieme sino alle 19, quindi adesso mettetevi comodi, stiamo per iniziare, lo facciamo subito con un flashback. Flashback. Probabilmente ho distrutto le nostre casse, è arrivato questo impatto musicale, niente male però, eh? E poi... il disco è molto tranquillo, no? Lui è un tipo molto tranquillo. Il primo disco di oggi è affidato a Brian Ferry. Questo è On The Road con Robin Antoni anche per oggi. Ultimo appuntamento della settimana, Slave To Love. There's no escape to need a woman.

passando dal 3,2% al 3,3% di dicembre. Lo rivela l'Istat nelle stime provvisorie, che indicano un aumento però dei prezzi su base mensile dello 0,3%. Sul fronte prezzi, il rincaro del cosiddetto carrello della spesa. Oggi il carrello della spesa costa 4,2% in più su base annua. In particolar modo la benzina. Pensate che la benzina è aumentata del 17,4%, dalla più 15,8% di dicembre su base annua, del 4,9% su base mensile. Cioè qua aumenta sempre la benzina. Tra i rincari ci sono le materie di prima... il primo bene, che potrebbe essere lo zucchero e il caffè. Bene, caffè e zucchero continuano a rincarare. A gennaio registrano vere e proprie impennate. Secondo le stime dell'Istat, su base annua il prezzo del caffè sale del 16,5%. Dovrò levarmi il vizio di prendere il caffè, io ne prendo tantissimo di caffè. E lo zucchero che sale del 15,9%. Forte calo delle spese bancarie, dicevo, i carburanti alle stelle. Il carrello della spesa, ossia i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza, sono aumentati a gennaio dello 0,8% su base mensile, del 4,2% su base annua. Su base congiunturale si tratta del maggior rialzo da gennaio 2011, quando il rincaro fu dello 0,9%. Ai ai ai, come bisogna fare? Anzi, come dobbiamo fare? Beh, altro che profezie Maya, dicevo prima, ci arriveremo noi a dicembre. Boh, chi lo sa? Ah, fate gli scongiuri. Ma ci giochiamo sopra, io non credo a queste cose. Profezie Maya, tutte queste cose strane. Quelli sono arrivati al 12 dicembre, che si sono fermati al 24, il 21, 22 dicembre del 2012. Poi non potevano più andare avanti. Non sapevano cosa scrivere dopo. Prima o poi dovevano fermarsi. Potevano fermarsi anche al 1980, hanno voluto continuare fino al 2012. Ricordate quando nel 2000 si disse che doveva finire il mondo? so se ricordate questa formazione degli Alphaville. Questo è stato un loro cavallo di battaglia. Sounds like a melody. Il suono è come una melodia. O la melodia del suono. Bah, fate un po' voi. Sono fatto che gli inglesi scrivono al contrario, ma non riesco mai a capire. 17:30, ci siamo papati la prima mezz'ora. Dobbiamo parlare di Super Mario. C'è stata un'ennesima caduta di stile da parte di Mario Balotelli, perché dopo essere stato incoronato secondo uomo più elegante d'Inghilterra, questa volta l'attaccante del City si distingue per aver infranto il codice della strada parcheggiando la sua costosissima Bentley bianca in divieto di sosta, mentre si godeva una bella serata a Manchester in un ristorante italiano con la fidanzata Raffaella Figo, ed è arrivata naturalmente la multa. Là non si perdona. Per Super Mario non si tratta, poi magari il poliziotto tifava per il Manchester United, quindi immaginate un po'. Per Super Mario non si tratta certo della prima, solo due mesi fa era stato fermato nel Borsey per eccesso di velocità a bordo della sua Maserati da 100.000 sterline, la stessa auto che lo scorso anno, pensate, gli è stata sequestrata ben 27 volte. Ha messo in seria difficoltà il Manchester City, società sportiva per cui gioca. A quanto pare nemmeno la vicinanza della prorompente Figo riesce a fargli mettere la testa a posto. Ci chiediamo allora a sto punto, ma per quale motivo, visto che lui così poco educato con la segnaletica della strada, perché non si mette la Figo a guidare? Ah, perché forse ha i tacchi troppo alti e non può guidare? Può essere. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più ora. Non c'è montagna più in alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi al panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. We'll be right back. Nori Giovanotti, ora, mamma mia che tempo, c'è l'allarme della protezione civile anche per Roma, allarme meteo a Roma, la neve, incredibile. Yeah. certo che dando uno sguardo alle condizioni meteo anche al centro-sud, adesso si registrano momenti di panico, perché la gente in autostrada è rimasta bloccata. Si era mai verificata una cosa del genere, tipo adesso Roma bloccata per la neve? Credo sia successo pochissime volte, si possono contare sulle punte delle dita, anzi forse di una mano, non di tutte e due le mani. Certo, se poi andiamo a vedere quello che sta succedendo in Ucraina, secondo il Ministero delle Emergenze non si tratterebbe solo di senza tetto, ci sono 101 morti in 7 giorni, di cui 38 nelle ultime 24 ore, il numero delle vittime dell'ondata di gelo che sta flagellando l'Ucraina in almeno 64 casi. Si tratta di senza tetto, secondo il Ministero delle Emergenze delle Repubbliche ex sovietiche, 11 persone sono decedute in ospedale, 26 nelle loro abitazioni. Si tratta dell'inverno più rigido degli ultimi 6 anni in Ucraina. Il governo ha fatto sapere di aver allestito 2940 tende, tutte riscaldate, per far fronte all'emergenza, e altre 130 dovrebbero essere pronte nelle prossime ore. C'è la salita, sono stanco, dai. Sono stanco. Oh yeah. Oggi ho fatto delle salite, mamma mia. Oggi correndo, poi correndo oggi. Cioè quasi quasi avevo una sorta di comprensione, cioè di mi sentivo male proprio nei confronti di quanti stanno male in questo periodo con le condizioni meteo. E da noi oggi non voglio esagerare, ma quantomeno stamattina il termometro si aggirava intorno ai 18-22 gradi. Non vorrei adesso dire delle cretinate, però la temperatura era alta stamattina, soprattutto intorno a mezzogiorno, 11-mezzogiorno, la temperatura era veramente alta. Niente a che vedere con i meno 20 e addirittura a meno 33 gradi che sono registrati nella maggior parte delle regioni della Repubblica ex sovietica, l'Ucraina. Mamma mia, cioè difficilmente in quelle zone

Un po' più da nightclub, un po' più da i notturni che si facevano qualche periodo fa. Lui si chiama Ray Parker Jr. Che canzone, semplicemente So Into You. Se siete innamorati, credo che questa sia la colonna sonora giusta da dedicare alla vostra dolce metà. Questo è On The Road, c'è Roby D'Antonio con voi anche per oggi, insieme sino alle 19. Devo salutare, devo farlo, il popolo della notte nella replica. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Salvami e allora. Salvami. Questa richiesta da Antonella devo salutare. Probabilmente ci vedremo anche domani sera in alta quota, sperando non piovano, ma non dovrebbe piovere. Almeno credo che le condizioni meteo danno forse un po' di neve qua nelle Madonie, ma da domenica, quindi vedremo un po'. Visto che devo salutare, ho fatto dei saluti, ne approfitto per salutare anche il mio carissimo amico Ignazio, che ho appena sentito al telefono dal Bronx, from USA. Hi man! Poi devo salutare anche un altro carissimo amico, ci sono sentiti l'anno scorso durante le dirette della Targa Florio, Targa Florio che ormai credo sia ritornata, perché si era vociferato che si poteva parlare del mondiale, no? Come tappa del mondiale, però credo che ritorni ad essere quello che è stato per tanti anni, il campionato italiano rally. Ne parleremo poi, tanto da qua a giugno ci sarà, quindi devo salutare Eros, questa è tua. Had a name, what would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, God is. Just a slob like one of us. except for the Pope may be in Rome. John Osborne, One of Us. E poi avete sentito, no? Per un motivo o un altro. E poi come si fa a dire che non è l'evento clou dello sport in Sicilia, e non credo solo lo sport, la Targa Florio, perché si corre in tre giorni e impegna una settimana direttamente, ma poi indirettamente per 12 mesi, restanti 11 mesi e dispari giorni, si parla sempre di questo evento motoristico che ci ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo, perché è la gara più antica al mondo, la Targa Florio. Se ne parlo ovunque, io facendo le varie dirette, avendo modo di parlare nell'ambiente, tutti i piloti ne parlano entusiasti, rimangono, e chi non l'ha fatto arriva qua per la prima volta, poi rimane così a bocca aperta, facendo a bocca a porto. Dai che prendiamo un po' di quota. Abbiamo parlato di rally, quindi prendiamo velocità, mi raccomando, però le strade sono un po' viscide. Leva il piede dall'acceleratore. You get me up like I'm late for my first class, so I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Eve, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the maid stove. And I apologize, but when I slip, I told girls to slip and slide. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. Just wanna make you sway. Mamma mia, come è volato via il tempo oggi, è una cosa incredibile. Quando passi bene la giornata vola, no? Quando trascorri bene le ore volano. L'orologio sembra quasi inserire il turbo. E va avanti, va bene, 18:27, giusto per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta, ma nello stesso tempo devo salutare anche gli amici che seguono la replica, quelli che lo fanno durante la notte, il mio appuntamento in replica da mezzanotte alle 2. Adesso c'è Mario Biondi. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Come on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds sing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Now there's another day's hurrying by, and you're in love, my heart. Mario Biondi, e poi dovremmo essere fieri di questo personaggio, di questo artista, perché arriva direttamente dalla nostra bella Sicilia. Mario Biondi, questa voce molto caldo, molto yeah, I wanna fight. E allora stavo leggendo una notizia che riguarda Francesco Renga. Ultimamente ha avuto un incidente cadendo, non so perché, mio incidente, lo dico come se avessi l'accento di Caltanissetta, per esempio. Un bacino rotto dopo una caduta della Vespa e il suo rapporto con Ambra, che è finito nel ciclone dei pettegolezzi. Dico, basterebbero queste due cose per demolarizzare un uomo. Questo non è successo a Francesco Renga, solo non è guarito, è più innamorato che mai della sua compagna, ma torna a Sanremo dopo la vittoria del 2005 con Angelo. Presenterà La tua bellezza, un urlo per il mio paese, ma anche la sintesi della mia vita in musica, lui dice così. A proposito di Francesco Renga, io volevo regalarvelo, lo faremo dopo la pubblicità, con quello che è stato il disco che ha fatto, la canzone che ha fatto vincere per l'appunto l'edizione del 2005 di Sanremo. Intanto un attimo di pausa, ma proprio due minuti, e poi Francesco Renga con Notte fonda senza luna e un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei, lei non sa vedere al di là di quello che dà. Parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole? Parole fane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli e questa la realtà. Ed è una paura. sa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà. Cavi a cantare, come te la cavi? Pronto? Come te la cavi a cantare tu? Io come ora male, malissimo. Beh, allora si dice per ora male. Malissimo come ora. E dai, non ci pensare. Tutte cose. Ma ora guarda, altre due o tre puntate qua in diretta diventi famoso. Compri... Tanto buonasera a tutti. E compri l'auto nuova, Rambo. La tua busta va a cantare qua giorni. Senti, io non posso. Va bene, Camino, posso le mamma a cazzo uno circo, Camino Cuscicco. Vuoi spiegare che cos'è lo scecco, per favore? Un cavallo, un circo. No, l'asino. Guarda che dovremmo farlo veramente tutti. Non male che ci sento Robby, per fare, devo passare un pochettino di avanti. Tu sei arrabbiato perché hai problemi con sta auto. La figlia della vita ha sbattuto un muro. Fai una cosa, vai al porto. La butta a mare, forse vieni. No, e poi c'è l'inquinamento, lo lascia perdere, non lo fa. No, non lo dobbiamo fare, Rambo, non facciamo queste cose. Casomai la demolisci e ne prendi un'altra. Vabbè, tanto soldi se ne assai per come. Tu devi fare una cosa, Rambo, devi prendere una cabriolet. Sai cos'è la cabriolet, no? Ma cazzo, un cosa. Una cabriolet. Sì, vabbè. Cosa va accanto? Sai cos'è la cabriolet, no? Sì, c'è la campagna, la stessa campagnola. Cabriolet, la macchina quella di capotto. Ah, roulotte, va. Ma quale roulotte? Ma cazzo, la roulotte, sì. Ma quale roulotte? La cabriolet, la macchina quella decappottata. Ah, sì, veniva a fare le feste. No, tu poi vieni qua a Cefalù, fai il fighetto, metti... Metti la camicia hawaiana e sbandare la volta un po' di gel, andiamo a cuocere la macchina tutta scalpottabile, a 5 giri mi, ma come devo fare con te? Sei diventato famoso anche nel Bronx. Mi compro la 500, Roberto. Ah, 500, magari ad averci la 500, sono le migliori, le 500. Si va a fare scolata, vuoi fare tuo soldo. Per 500 non la fai scolata tu. Poi andiamo a fare la sfilata, quando io mi ero promesso che non avrei fatto più una... Sai che io a bassa strada ogni giorno mi fai sentire sempre sto ritorno, Rambo. Allora, sì. Hai abbassato? Sì. Allora, ti dicevo, io sono stato sempre uno... dei fautori. Sai cos'è un fautore, no? Sì. Cos'è? Fautore sarebbe un amico. Un amico. Pronto. Sì, ci sono, stavo svenendo però. Di chi? Allora, io sono fautore, uno che si presta, uno che dà una mano. Io organizzo la sfilata della Juve, organizzavo i tempi passati. Che ragazzi, sapendo il mio lavoro, io e Roberto dobbiamo organizzare, lo organizzavamo i vari. Scusate, la più bella, sai qual è stata? Rambo? Sì, sento, parla Roberto. La più bella sfilata che abbiamo organizzato, sai qual è stata? Quella del, quanto è il 22 maggio, quando è stato? Ah, 5 maggio 2002. 5 maggio 2002. Hanno l'intermezzo che campo tu scudare più scudetto. Cioè quella che in una partita. C'è stato Lazio Inter, poi forse ci sono una risa più. Che vuoi mettere la risa da un ratino Prima basta, vai. Quello è stato l'ultimo che noi abbiamo festeggiato. È stata 4-2 finita. Una cosa bellissima, è finita 4-2. Ti arrestavo cara ancora. No, poi la cosa bella che c'era l'Inter prima, la Roma seconda, noi eravamo terzi. Noi ce l'avevamo a Udine, allora, abbiamo vinto 2-0. Cioè, è successo che l'Inter ha perso, la Roma ha pareggiato e noi abbiamo vinto. Aspetta, Roma giocava a Catania. Non lo so, non ricordo adesso, io ricordo. Sì, sì, giocava a Catania. Siccome i laziali che non volevano che vincesse la Roma lo scudetto, tutti i tifosi laziali, ti ricordi, sono vestiti con la maglia dell'Inter. Sì. E di conseguenza la squadra si è sentita un attimino offesa, ha detto: ma come? Noi tutti i nostri tifosi che tifano per l'Inter, allora hanno messo il doppio d'impegno. E hanno vinto la partita 4-2. Noi di conseguenza abbiamo vinto 2-0. Bella. A Udine. E comunque non entriamo nei particolari. Questa è l'ultima sfilata che ho organizzato, l'ultima festa. E tu ti ricordi che ha segnato a Udine e Juventus? Del Piero, Trezeguet e Del Piero, credo che abbiamo segnato. Sì. Loro due? Sì, Del Piero ci avevamo considerato la Roma a punizione. Vuol dire c'erano pure filine. E allora abbiamo organizzato, anche perché poi abbiamo avuto una settimana di tempo per organizzarla, è venuta fuori una festa bellissima, schermo gigante, Piazza Duomo, 29 torte con la forma dello scudetto, una cosa bellissima. Mi sono promesso che da quel giorno non avremmo più, perché poi diventava troppo, infatti gli scudetti che abbiamo vinto, gli altri due io manco li ho festeggiati, perché era troppo brutto, troppo scontato, troppo facile. Ora mi sono ripromesso. Ora mi sono ripromesso che se la Juve dovesse vincere lo scudetto, io scendo in campo in prima fila. Roberto, ma l'intervista che cosa ne pensi? Come tu comunale come? Non lo so. Oh, un pochettino giù. Sono giù con questo pareggio. Ma tu ci potrei essere di fianco con su, non allora mica ci può rapporta a Roma. No, hai Roma. Sentito, la partita è stata spostata, non più si doveva giocare intanto sabato tutte le sera. Partite sono tutte alle 15, allora si doveva con le 12 e mezza, dai, sì, ma si doveva giocare, no? Il Cesena Catania è stata annullata definitivamente, proprio sospesa la partita, come si dice, rimandata, rinviata, e forse 15 febbraio, ecco. Invece Roma Inter, che si doveva giocare sabato alle 20:45, prima era stata anticipata sabato alle 15, invece ora è stata posticipata domenica alle 15. Non si sta capendo più niente, guarda. Va bene. Veramente uno non sa più cosa fare con queste partite, va. Vabbè, Roberto, l'importante è giocare. L'importante è poi giocare. La Juve poi la prossima settimana recupererà la partita con il Parma, poi ci sarà Coppa Italia. Tutto cotto si chiama. Si chiama Parma. Va bene, Rambuccio. Roberto, volevo fare saluti a tutti. Certo, fallo, fai i saluti, falli. Saluto a Lucia, Nadia. Poi chi c'era più, Roberto? Allora, tu saluti solo le donne, vero? Antonella. Antonella, vuoi Antonella? Come chi è Antonella? Un'altra ascoltatrice che ti manda sempre saluti. Poi devi salutare Massimo, Massimo, poi c'è Ignazio, Simone. Poco fa mi ha chiesto di te, Ignazio, dal Bronx. Saluto a Ignazio, Angelo. Ecco, a Massimo che andrà a ballare stasera un po' di salsa latinoamericana a Losanna, pensa. Roberto, lo sai tu ogni sera io da mezzanotte alle 2 ascolto il tuo programma. Ma sì. La replica, bravo Rambo, bravo. Mi sono addormentato con la radio accesa. Ciao Rambo, allora ci sentiamo lunedì. Mute, certo. Questo è il disco nuovo, te lo dedico Rambo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Fire away, ricochet. David Guetta, lei sia. Questo è il nuovo in ordine di apparizione, nuovo singolo per David Guetta, questo disc jockey francese che tutto ciò che tocca lo trasforma in oro, veramente riesce a fare solo numeri uno, solo dischi che poi avranno grande successo come in questo caso. A proposito, Rambo si era dimenticato di fare un saluto, devo fare io, devo salutare Francesco e tutta la sua salumeria perché all'interno ascoltano la nostra radio, quindi di conseguenza in questo momento sta ascoltando On The Road. Ciao Francesco, o dico qualche cosina, mandala a Francesco quando Rambo viene, che so, un salamino, un po' di provolino, eccetera eccetera, queste cose spiziose, sai? avete problemi? Tutto risolto. C'è per voi Dr. Alban. L'ultimo stocking all'interno di On The Road, visto che l'ha fatto già Rambo, devo rifarlo io, il saluto alla gente che ascolta la replica è notturna, quella che va dalla mezzanotte sino alle 2 circa. Adesso un attimo di pausa, poi il rush finale sino alle 19 in questo caso, perché siamo rigorosamente live in diretta. Che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti in mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo era il bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalleriona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona. Poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye, come ti sei ridotta in questo stato. Goodbye, malinconia. Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato. Migranti in fuga dal bagnasciuga e malinconia, terra di santi, subito e sanguisuga. Il paese del sole in pratica, oggi paese dei raggi uva. Non è l'impressione, la situazione più grave di un basso tuba. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda. Qua ogni rapporto si complica, come quello di Washington con Teheran. Si peggiora con le tanti, viene il broncio da Gary Coleman. Metti nella valigia la collera e scappa da malinconia. Se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Purtroppo anche per oggi è finito l'appuntamento, ultimo della settimana. Adesso per una nuova puntata in diretta ci risentiremo lunedì, ancora a partire dalle 17. Rambo, non ti preoccupare perché la tua canzone è in programmazione, arriverà dopo l'appuntamento con l'informazione. Quindi mi raccomando, fate un buon weekend, divertitevi, divertimento sano. E poi, visto che andiamo incontro a un weekend un po' tartassato da questo brutto tempo, allora mi sento di dire di fare molta attenzione in auto. Di solito in queste occasioni è sempre meglio 5 minuti dopo, però tranquilli. Bene, da Roby D'Antonio è tutto. Un bacione alla prossima, quindi a lunedì dalle 17. Buon weekend, ciao!